Zot. Fulminati in azienda. Centrifuga, mi serve il polso delle vendite internazionali. Fammi chiamare lo squalo, va, lui che è un vero commerciale, sempre sul campo, on the road. E a quest'ora sarà bloccato sulla tangenziale di Sarajevo in pregabbero. L'Est Europa, Belgrado, Tirana, questi sono i nuovi mercati, la nuova frontiera. Pronto, pronto. Oh, carissimo direttore, come stai? Ciao. Che piacere sentirti. Grandissimo squalo, il piacere è tutto mio. Cosa si dice di bello lì a Sarajevo? È bello, niente, sto bloccato sulla tangenziale di Sarajevo, però la mia concentrazione è quella dei miei uomini, è tutta sul cliente bosniaco. Bravi, bravi, vendere, ragazzi. Se vendere, direttore, ti ricordo che il cliente più facoltoso della Bosnia non riceve la consegna da 3 mesi. Ti ricordi quello che abbiamo convinto ad acquistare il prodotto alla fiera dell'Est? Uè, Branduardi, ma come da 3 mesi? Non è possibile, squalo. Abbiamo introdotto il programma di consegne, pronto subito. Se sarà pure pronto subito, ma il cliente balcanico, il prodotto non è arrivato, è inferocito e ha deciso di passare alla concorrenza cinese. Squalo, scusami, ma una chiamata sull'altra linea, ti richiamo io, stai quieto, ti richiamo io. Centrifuga, ma cosa vengo a scoprire? Io mando uno dei migliori commerciali alla conquista dell'Est e noi consegniamo il prodotto in ritardo. Non dico così che mi viene attacco da erna iatale. La colpa è dalla fabbrica e dalla logistica. E il prodotto non è mai finito, sono troppo precisi. E i ritardi dei consegne sono diventati una tragedia. Centrifuga, se quelli della fabbrica non consegnano subito il prodotto al cliente di Sarajevo, io faccio scoppiare la guerra. L'attentato di Sarajevo. La prima guerra aziendale. Marco, non puoi dichiarare guerra ai colleghi della fabbrica. Tra le vendite e la produzione ci deve essere team working, allineamento, pace, insomma. Ascolta, schedula, ma ti pare allineamento e pace questo qui? Quelli della produzione con i loro ritardi di consegna mi mandano a piccola azienda. Organizziamo un incontro, convochiamo le rappresentanze sindacali, gruppi qualità del Kaizen e negoziamo un maggiore commitment. Ma quale Kaizen e Kaizen? Cosa vuoi negoziare con loro? Con quella testina dell'ingegner genovese che fa il cappetto della fabbrica e mi ritarda la consegna? Io lo licenzio, no, quello no, lì. No, non possiamo, Marco. È l'ingegnere più specializzato sul mercato europeo nella produzione efficiente mini variata . E abbiamo fatto un contratto milionario. Appunto, milionario. Lo paghiamo tanto per incassare tanto. È un do ut des. È un dare per pedalare. Sul pezzo. Ma che mi combinate con gli amici balcanici, se vuoi sapere? Dottor Laporta, scusate, ci mancavate solo voi delle relazioni istituzionali adesso. Mi ha appena chiamato il ministro dell'economia della Bosnia Erzegovina. Ecco. Sai, è un suo carissimo amico, è nostro cliente. Dice che se non gli consegniamo subito i prodotti, interrompono tutte le relazioni economiche con il nostro paese. Una tragedia. Immagino, i Balcani in fiamme, un caso diplomatico. Il vero problema alla porta è che i nemici noi li abbiamo in casa, sono quelli della produzione. Allora, sul pezzo, ci vuole un armistizio. Costituiamo la duplice alleanza tra il mio dipartimento relazioni istituzionali e la tua direzione generale. E vedrai che in due a quelli della produzione li facciamo ragionare. Ma come, scusate, un'alleanza degli uffici contro la fabbrica non è un pochino azzardato? Forse un attimo, no? Un pochino azzardato? Oi, schedula, anche voi delle risorse umane dovete decidere cosa fare, o con noi o con la fabbrica. Del resto, tertium non Darfur. Allora, centrifuga, quelli della fabbrica si sono scusati o no per i loro ritardi nelle consegne del prodotto ai clienti dell'Est? Allora, l'ingegner genovese ha consegnato alla diplomazia un documento dei 700 fogli Excel. Dove dice che gna fa a consegnare. Perché dice che i venditori hanno venduto il prodotto a un prezzo stracciato e lui, per non andare in perdita, lo ha dato da Prodù in Cina a costo bassissimo. E allora? Ci vuole a far arrivare un prodotto dalla Cina oggi? Che ce vuole? Per risparmiare sui costi del trasporto da Cina a Bosnia hanno organizzato una carovana con i bufali come ai tempi di Marco Polo. Vabbè, ma l'abbiamo venduto a prezzo così stracciato questo prodotto. Alla fiera dell'Est per 2 soldi è il prodottino er bosniaco comprò. Hai presente la canzone? Zot è scritto e interpretato da Andrea Beretta, Nicola Giunta, Andrea Notarnicola e Patrizia Sorrenti, con la partecipazione di Chiara Romersa, Emanuele Margiotta e Pina Luciani. Se vuoi saperne di più, www.zot.tv 3Z 2O 1T.